quando la gente lo vide volare, non sapeva quali parole parlare. A testa sollevata seguirono quell'uomo proiettile, sin dove il loro sguardo sapeva arrivare. Non ho le parole dopo l'amore, immobili per ore, attendo che la vita mi caschi accanto, mi dica sposta il tuo cuore un po' più in alto. Mi guardo, abbasso lo sguardo, mi volto, sorridi, amore, ti ho amato. Poesia, quasi d'amore, di Luigi Febbraio, ad Anita Kamaiti, sua futura sposa. Luigi Febbraio, operaio metalmeccanico, produce per il mondo 3.000 dadi d'acciaio filettati in un turno di 8 ore di lavoro. Anita Kamaiti, operaia tessile, produce per il mondo bellissime maglie di lana. Una notte, l'operaio Luigi Febbraio depose l'ultimo dado prodotto quel giorno sopra il suo comodino e poi si addormentò. L'amore fa miracoli. E al mattino quel dado d'acciaio filettato era un bellissimo anello d'oro bianco. Alla sera, nella zona industriale, che ha nulla o poco di romantico se non la luna e comunque non sempre mai in esclusiva, l'operaio Luigi Febbraio dona l'anello ad Anita Kamaiti. Lei gli donò invece una maglia di lana. Lui la indossò. Bella cazzata, cosa non si fa per amore? Era il 3 luglio 1970. Faceva un caldo maiale e lui si liquefece. Il suo amore però, quello no. Si sposarono in settembre. Dal loro amore nacque un figlio, si chiamò Lio Febbraio. E questa è la sua storia. Pre-prologo, specchio. Pausa di riflessione, prologo musicale, può partire la musica. È già partita. Ma come è già partita? Non la sento. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. È partita, partita, partita, partita, partita. Andata, si è trasferita in Brasile. Da vita samba, danze sudamericane, ora tu la utilizzavi in modo troppo basso, lento, non senti il ritmo. Nostalgico e decadente il tuo mondo, ha detto lei prima di partire. Avverto nei vostri volti che non vedo. Un forte e giustificato, depresso logico desiderio cambia pezzo. Ho solo questo. Il mio nome è Lio Febbraio, io sono Lio Febbraio. Ho come un vocabolario perché fa spessore, i capelli spettinati perché fa un artista come tra le televisioni fanno un capo di governo. A ognuno il suo. Ognuno ciò che può, ognuno ciò che vuole. Questo è un monologo? Se sì, io avevo necessità di conoscere una parola per descrivere me in questo contesto, in questo palcoscenico qui, ora. Lo cercate in questo vocabolario che farà pure spessore, ma inutile, non l'ho trovato. E allora me ne sono inventate due. Ma come cambia la lingua italiana? Com'è malleabile, manipolabile? Con quale velocità e semplicità mi sono inventato le parole monologhista e monologante? Ora, monologhista fa un po' politica, meglio evitare. Monologante fa schifo. Però rende l'idea, utilità, praticità, questo ci vuole per vivere bene in un mondo così rigido. Se questo è monologo, è monotono, monotono, corde. Praticamente non c'è, scusatemi signori. Ma io non ho saputo fare di più. Il fatto è che io sono un semplice raccontastorie, eppure troppo allegre, senza morale, un sognatore di personaggi inutili di qua e la società non sente, non ha necessità. Però tu sei un tassello fondamentale di questo mondo. Ah, come no? Il fatto è che il monologante me avrebbe voluto fare altri lavori nella vita. Agente monomandatario. Finito male, finito subito. È stato monomandato via. Per carità, non ti voltare neppure. Tu non sei adatto neppure a vivere secondo la nostra opinione aziendale poco modesta. Il monologante veste in maniera monocromatica nera che poi unita al taglio spettinato di capelli. E che cavolo di artista che fa? Il monologante è monogamo e non per scelta, non per difendere una cultura, la religione. No, no, no, no, no, no, no, no, per forza. È che ne ha trovata una e una soltanto, deve tenersela stretta o diventa meno che monogamo il monologante monofobico che avrebbe voluto un'auto, ma Mica un'auto normale. Una monoposto, Ferrari, Formula 1 e sfrecciare veloce 300 all'ora e passa verso i suoi sogni. E il monologante, cavolo, ne ha tanti di sogni, ne ha talmente tanti che non bastano le stelle. E invece il monologante ha un monopattino. E qui si capisce la situazione brutta, tremendamente brutta, talmente brutta che gli fa girare la testa, lo fa dondolare, perde l'equilibrio e poi lo pietrifica. Nota la situazione, esame, oltre ad essere brutta, tremendamente brutta, eppure bastarda, perché lo pietrifica in una posizione scomoda di dubbia morale, visto che una posizione a 90 gradi mi pare di dubbia morale. Ora, se è vero che le formiche nel loro piccolo si incazzano, pensatemi ai monologanti monofobico che sono più grandi di una formica. E non ho neppure il mio piccolo per incazzarmi, tanto che se voglio incazzarmi devo andare da un parente. Allora prendo e vado da mio fratello, lì mi incazzo. E lui giustamente mi dice: guarda, siamo fratelli ormai da una vita, ma non comprendo perché quando tu vieni qui da me sei sempre incazzato. No fratello, tu sbagli logica. Io non vengo da te, sono sempre incazzato. Io vengo da te proprio per incazzarmi. È premeditato. E pensare che a me monologante monofobico basterebbe un monolocale, ma il mattone costa, il costo del mattone cresce, cresce, cresce, cresce, cresce, cresce, cresce, cresce, cresce, mentre il mio stipendio rimane fisso. Tremendamente fisso. Fisso come il mal. Fisso come lo sguardo di un malato sessuale che fissa una ballerina di lap dance, che fissa il portafogli del malato sessuale che la fissa. Il mondo è un bordello, signori, prendetemi in parola. Ed io sono un operaio con il mio stipendio fisso. Sono un operaio, non faccio l'operaio. Essere, non fare, qui non si pone il problema, perché operai si nasce ancora prima. Quando una coppia di operai fa l'amore e vuol mettere al mondo un figlio, non dice, che poi anche qui, mettere al mondo un figlio, voi lo avete un posto anche piccolo per un figlio? Considerazione interno personale quasi maniaco-depressiva del monologante Emilio Febbraio, uomo di 30 anni, alto 1,88 m, ma di poco spessore, che in mancanza di un monolocale lì risiede temporaneamente in un metro quadro di palcoscenico qui, ora. Fine della considerazione interno personale quasi maniaco-depressiva del monologante, riprendo. Quando una coppia di operai fa l'amore e vuol mettere al mondo un figlio, non dice, caro, questa sera dopo la televisione, dopo la cena, dopo Bruno Vespa. No, no, un figlio dopo Bruno Vespa non ve lo consiglio, non si sa mai cosa potrebbe uscire. Caro, questa sera dopo la cena, dopo la TV, lo facciamo un bambino? Che cosa? Lo facciamo un bambino? Un bambino? Ma no, facciamo un operaio, ma sì, facciamo un operaio, che c'è sempre bisogno di un operaio in più nel mondo. C'è tante cose da fare, costruire, allora fatica, allora sudore, allora calli nelle mani, perché non facciamo un operaio? Sei soltanto l'ipotesi di un pensiero che passa per l'anticamera del cervello dei tuoi futuri genitori alla velocità massima con cui può andare. La monoposto che hai sempre desiderato, che non hai e che mai avrai. E sei già fregato. Non passa molto tempo, sei uno spermatozoo. Fra milioni di spermatozoi ti si riconosce benissimo, sei l'unico a indossare la tuta blu con la scritta dietro le spalle dell'azienda per la quale lavorerai, che fa parecchio dipendente. Sei l'unico ad avere obliterato, timbrato il cartellino prima di entrare, e poi ancora una volta dentro non riesci a esimerti dall'organizzare riunioni, manifestazioni, scioperi sindacali. È la tua natura. Se poi resti più di 9 mesi, chiedi lo straordinario. Ingenuo, non te lo daranno mai. Come non te la darà mai la spermatozoo femmina, che tu hai notato subito 9 mesi fa, e appena obliterato il cartellino volevi diventare padre prima di nascere e sovvertire così tutte le leggi della natura. Ai, è pericolose tu, sovversive! Sarai un operaio ribelle. Nel frattempo sono passati 9 mesi e 2 giorni. La tua richiesta di straordinario è stata stracciata, non solo tu sei stato licenziato e cacciato fuori. Che cosa? Puoi ripetere, per favore? Guarda, tu sei stato licenziato e cacciato fuori. Sono stato? Sono fuori? Sono fuori? Cazzo, sono fuori. Bello. Arrivederci, signora. Grazie per l'ospitalità di 9 mesi. Richiudo. Buongiorno. Buongiorno, politici, politicanti, politicizzati, imprenditori, oratori, imbroglioni, dipendenti, attenti, diffidenti, scrittori, spettatori, sognatori. Buongiorno padri, buongiorno madri, buongiorno mondo. È nato Lio Febbraio, è nato un operaio. Ora, Lio Febbraio nasce in un piccolo paese, in un piccolo ospedale. Sua madre, una piccola donna, suo padre è un operaio che si accontenta di piccole cose, che fa piccoli sogni ed è basso. Ora, in questo piccolo paese c'è una piccola fabbrica, gli abitanti del piccolo paese lavorano quasi esclusivamente nella piccola fabbrica. Ma proprio il giorno in cui Lio Febbraio nasce accade una cosa del tutto inaspettata. Chiude la piccola fabbrica del piccolo paese. Motivazione ufficiale: mancanza di lavoro. Motivazione vera? In Romania la stessa quantità di lavoro costava meno, parecchio meno. Poi i titolari dell'azienda dissero che non ne potevano più dalle continue denunce da parte dei verdi. A questa accusa i verdi diventarono viola. Mutazione genetica spontanea. Dopodiché però la popolazione del paese li fece neri. Mutazione genetica violenta. Ma non servì. Ha chiuso la fabbrica. Ha chiuso la fabbrica. Ed ora? Che cosa ci facciamo noi con questo operaio appena uscito adesso dalla produzione ancora caldo? E fra le varie decretine? Rimettiamolo dentro. Ma no, non possiamo. Ma sì che possiamo, ma no, non possiamo. È contro natura, ma poi guarda, è anche bello grosso fisicamente. Ma no, rientra. Ma sì che rientra, porta quella donna. Tu tira la gamba destra, tu prendi la gamba sinistra. Io premo, rinserisco e poi si richiude. Intanto la donna è già morta. E paura. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Interviene un altro cervellone lì accanto. No. La fabbrica si trasferisce in Romania. E allora andrà a far l'operaio in Romania. Andrà a far fortuna in Romania. Sì, vedrai quanta fortuna farà da operaio in Romania. Hai soltanto un giorno di vita e già ti sei catafottuto il lavoro. Non cominci bene. Chiuso la fabbrica. Ha chiuso la fabbrica, ha chiuso la fabbrica, ha chiuso la fabbrica, ha chiuso la fabbrica, ha chiuso la fabbrica. E la voce, fattasi adulta, diventa notizia. La signora Pinaltieri e il marito ci lavoravano da 30 anni. La signora Pinaltieri piange da 3 giorni e le previsioni non mettono nulla di buono per i prossimi. Gli inquilini del piano di sotto sono lamentati per l'eccessiva umidità, se le condizioni non cambieranno. Sono intervenuti anche i pompieri che hanno tentato di spengere le preoccupazioni della signora Pina, ma inutilmente. E poi l'idraulico, che ha tentato invece di riparare fisicamente la signora Pina, ma è stato inutile. L'unica cosa seria e costruttiva che ha saputo e potuto fare è una deviazione. Ora le lacrime scendono direttamente in cortile e sono utilizzate per annaffiare il prato, che in estate diventerà un bellissimo giardino. Sono così passati alcuni giorni. La signora Pinaltieri è stata trovata priva di vita, ma con la morte addosso. A 2 metri dalla propria abitazione, a 7 pollici dal marciapiede e a meno da 1 millimetro dal parlare, dal pettegolezzo, avevo sentito dire che mi pareva povera donna della gente. Il medico legale ha poi constatato che alla donna era stato spezzato il cuore, ma che la ferita risaliva 1 anno fa, quando il marito la tradì con una donna di passaggio, scendendola poi al paese più vicino, e soltanto in quel preciso istante facendola diventare di passaggio. Il marito era ricercato dalla polizia. Quando lo troveranno, forse gli faranno delle domande della serie: dove ha messo la vita di sua moglie, la morte che è stata trovata sopra il corpo, ce l'ha messa lei. Intanto, con l'unico autobus che sale su in paese, è arrivata la primavera e la vita va. Per chi rimane, invece, la vita è un ternallotto, le cose vanno e vengono come il bene e il male, fra manifestazioni sindacali. Manifestazioni di piazza, manifestazioni d'affetto e d'amore di un politico che comizia promesse fino a giurare davanti alla pubblica piazza e la sua coscienza rigorosamente privata, che sarà sempre fedele agli operai nel bene e nel male, nella buona e nella cattiva sorte, nella gioia e nel dolore, finché un pugno di voti non ci separi. Vi dichiaro marito e moglie. Manifestazioni di rabbia e disperazione incatenate in un cancello freddo anche a 40 gradi, perché fredda è l'indifferenza di chi fa comunicazione. Di queste manifestazioni ne abbiamo viste a migliaia e gli sponsor non pagano. Come te lo devo dire che gli sponsor non pagano? E io sono veramente un disperato. Sì, ma tu sei veramente un disperato. Siete in troppi. Ti faccio un esempio. Ieri a Roma, 2 disperati, per 2 situazioni diverse, 2 situazioni completamente diverse, si sono dovuti dividere un cancello per protesta. Non c'erano più cancelli a Roma. Non va così, non va. Però aspetta, perché io sono un genio della comunicazione. Se però, quando sei lì, bello incatenato, soffri parecchio, ti spari in diretta televisiva, ma prima leggi un testamento di denuncia sociale dove tu non lavori, tua moglie non lavora, tu sei malato di cuore, tua moglie anche, tua moglie è incinta, tu no. Non mi sembri credibile, non serve la nostra storia, non serve la nostra storia. E non si capisce ancora la portata dell'evento, questo perché la variabile è ampia. Se abbiamo il dato precedente a disposizione, avete già 6 gemelli. E fu un parto lento, talmente lento che il primo gemello è il segno del pesce e l'ultimo del leone. E nonostante ciò, non percepite nulla né dagli sponsor per un problema burocratico, per stare così nel classico, né dallo Stato. Questo perché il giorno successivo al vostro parto, un'altra coppia partorì ben 7 gemelli, accaparrandosi così, con estrema velocità e per una sola lunghezza, se così vogliamo chiamare un figlio, tutta la sponsorizzazione di pappine, vestitini, giocattolini e tutto quanto per l'invazia. A questo punto, tu il giorno successivo, camminando in modo depresso, perché depresso, a Capo Chino, che non è una metropoli cinese, ma il modo fisico in cui tu ti presenti in paese, vedi, raccogli 1 euro da terra, il passante che ti incrocia ti dice: e che culo, la fortuna sempre tutta quanto agli altri. Beh, guarda, a questo punto posso dirti che soffri di una forma di sfiga neppure riconosciuta dalla società, che non fa piacere, ma a parte questo, sai, non posso prometterti nulla, però, guarda, fai come ti ho detto, che forse ti facciamo un contrattino e finisci anche in televisione. Contento? Peccato che muori lì. Vabbè, ora non si può stare, no? Le manifestazioni per gli operai sono fondamentali. Se un operaio si ammala, stato febbrile, insofferenza che porta alla sofferenza, crisi di pianto di fronte all'ultima busta paga, indifferenza di fronte a un muto trentennale che però reclama la sua esistenza. Ma non indipendenza, sono tuo! Beh, lo stesso medico di famiglia, visti i sintomi, domanda: ma questo operaio, signori, da quanto tempo non va a una manifestazione? Un anno, più di un anno, alla manifestazione! Le manifestazioni per l'operaio sono curative! E allora vai! Si comincia con i politici, illudeteci, non mantenete, non c'è bisogno, ma vogliamo essere felici almeno per una sera, per un giorno! E allora si va! E vai! Da domani le cose cambieranno! Da domani aumenteremo gli stipendi del 50%. Io speravo 51, 52, però mi accontento. Da domani non diminuiremo le tasse, le aboliremo proprio. La stessa parola tassa verrà giustiziata all'alba in pubblica piazza, cosicché nella prossima edizione del vocabolario della lingua italiana rimarrà un vuoto e lì sarà retta una croce in memoria di... ma bellissimo. Da domani diminuiremo l'età pensionabile, aumenteremo le pensioni, non soffrirete più né di sbalzi, né di umore, né di pressione. Vi saranno pagate le vacanze sia estive che invernali, saranno introdotte anche le vacanze di mezza stagione, i più meritevoli vinceranno un viaggio su Marte. Siamo arrivati alle balle spaziali. Cosa desiderare più dalla vita? Un Lucano? No. Siete già ubriachi di falsa felicità, un sacco di promesse che non verranno mantenute e anche un po' d'alcol. Ed è così che andate via dalla manifestazione che sta scemando proprio perché voi andate via. Siete un cane o altro animale, comunque deficiente che si morde la coda. Poi domani e un altro giorno si vedrà. Anzi, in questo particolare caso, poi domani e un altro giorno si leggerà. Cosa? Un silenzioso telegramma portato da postino con mani curate in bicicletta classica da uomo nera. Telegramma dove c'è scritto "Ex, I love you". Vi abbiamo tanto amato. Non vi scorderemo mai. Siete stato la persona più importante della nostra vita. Bello, bellissimo, bellissimo. Ma causa esubero di personale, siamo costretti a licenziarvi. Sei stato licenziato. E da questo momento la vita è una catena di montaggio di eventi contro di te. Tua moglie ti lascia. E vin qui. Poteva anche andare peggio, pensi tu. Ma dai tempo al tempo. La stabilità economica che hai sempre sognato e considerato una leggenda mitologica, ecco, per te tale rimarrà. Ma tu? Ma tu sei ancora un inguaribile ottimista e sorridi ancora alla vita. Peccato che però lei non ti cachi ma neanche di striscio. Ma tu sei ancora un inguaribile ottimista e sorridi ancora alla vita. Fin quando un giorno un'anziana e allegra signora, fino a quel momento anche simpatica e innocua, ricordando le sue origini contadine, con auto elettrica ti falcia sulle strisce pedonali. Oh, la cura! Tu eri un inguaribile ottimista, sei perfettamente guarito. Suicidio! E ora la parola che danza nella tua testa è: un giorno, dopo aver comprato del coraggio da chi ne aveva da vendere, ti gettasti dalla finestra della cucina. Se il destino vorrà, morirò, pensasti tu. Bravo, giusto pensiero, ma alcune volte forse il destino andrebbe anche aiutato. Forse avresti dovuto comprare più coraggio, non so che dirti. Il punto, la realtà, è che tu ti buttasti da pian terreno ed ovviamente non ti facesti un cavolo. Ecco, ecco dove cresce Lio Febbraio, che intanto ha già 6 anni. Ed è tempo per lui di ricevere la giusta istruzione statale, pubblica e obbligatoria. Scuola pubblica e scuola privata. Scuola di serie A e scuola di serie B. Alla scuola di serie A si presentano predestinati Anche alla scuola di serie B si presentano predestinati. Ognuno a suo modo e non si bara. Il DNA non mente, è un testimone attendibile, ne è convinto l'ispettore di controllo. Decido io, tu vai a studiare alla scuola di serie A e tu vai a studiare alla scuola di serie B. Ora, il DNA del predestinato alla scuola di serie A è a forma di indice Mibtel, in forte ascesa. Il predestinato invece alla scuola di serie B ha il DNA a forma di catena di montaggio, non c'è possibilità di errore. Se poi sei un predestinato alla scuola di serie A e arrivi anche primo, hai anche diritto ad alcuni premi, uno dei quali, per esempio, è la possibilità di poter gestire per un'intera giornata un'intera squadra di operai. Se sei bravo, in serata ne fai 11 calciatori e domani vinci una coppa di campioni. Bravissimo! Invece, se sei un predestinato alla scuola di serie B, anche se arrivi primo, non ci sono premi in palio. Questo perché non ci sono i fondi necessari. In realtà i fondi ci sono, ma ci hanno già messo le aule. L'inverno fa un freddo boia. Non c'è però una ghigliottina, allora nessuno ha paura, nessuno si lamenta. Potrebbe andare peggio, si pensa. Alcune volte basta un pensiero a portarsi sfiga, tanto che muore per congelamento il boia. Ora fa un freddo cane, ma la temperatura scende ancora, tanto che muore per congelamento pure il cane. A questo punto, gli abitanti della scuola di serie B si divideranno. Per alcuni farà un freddo della Madonna, per altri farà un freddo del diavolo, ma il risultato non cambierà. Nella parte più fredda della scuola di serie B abita un certo Alberto Forte, ma non abbastanza, lì è rimasto soltanto il suo corpo, la sua anima in volo, chissà dove è andata via. Per un poco di cultura proletaria ha dato la sua vita, ma poi c'è sempre l'altra parte della medaglia, medaglia non moneta, perché nella scuola di serie B non c'è moneta. E per rendere la povertà della cultura ancora un pochino più internazionale dirò, nada moneta che poi anche medaglia esprime troppa ricchezza. Utilizziamo allora un tappino dell'acqua naturale e abbiamo, ma poi c'è sempre l'altra parte, il tappino dell'acqua naturale, tu lo prendi, lo giri, c'è scritto non hai vinto, ritenta, e allora tu lo riprendi, lo rigiri, c'è scritto ancora non hai vinto, ritenta, e allora tu lo riprendi, lo rigiri, c'è scritto ancora non hai vinto, ritenta. A questo punto il tappino dell'acqua naturale, saturo di tanta demenza proletaria, ti dice: ehi, guarda, con me non hai vinto, ritentasi ma con un altro. E tu ci rimani anche male di essere stato ripreso da un tappino dell'acqua naturale. Depresso, represso e compresso, ti presenti alla primavera, la quale però non ti accetta, sei troppo messo male, lei è troppo bella. E abbasseresti la media, effettivamente ha ragione, considerazione esterno-visiva di un passante di passaggio, 11 decimi a destra e 11 decimi a sinistra, che ti osserva che non può sbagliare. Aspettasti e arrivò la primavera. Le cose cambiarono completamente, anche troppo velocemente. E tu, dopo un primo momento di smarrimento, scartasti il secondo, dribblasti il terzo, il quarto lo superasti con un pallonetto e segnasti di testa il tuo ritrovamento. Ti eri congelato in pieno inverno nei tramonti rossi di Via Col Vento. Ma la scuola è solo una tappa nella vita di Liu Febbraio. In volata arriva secondo, dietro solo se stesso. Era spesso in autocompetizione, parlava spesso fra sé e sé, ma lì non c'era mai nessuno, pensava. Parlo spesso con me stesso e neppure lui mi caca. Intuivo da lì vagamente di non aver l'abito nella stoffa per farselo del dialogatore. Avrebbe fatto altro nella vita, sì, ma cosa? Era un eterno indeciso. Avrebbe voluto fare una cosa con tutto il suo cuore, tranne la metà. Avrebbe dato tutto per fare una cosa, tranne ciò che gli apparteneva. Vado a fare domande di lavoro, ma non attendo le risposte. Vado a fare un bellissimo viaggio all'estero, ma a casa per cena. Poi un giorno, la patria lo chiamò. Prestò servizio militare, dopo un anno lo regalò e tornò, e venne il tempo dell'amore, furono baci, furono sorrisi, era soltanto settembre, ancora presto per i fiordalisi. Lei si chiamava Margherita e come ogni amore in fiore, appassì e poi morì in ottobre. La vita non aspetta. Il nostro eroe, se questa storia ha un eroe, perse il passo, con lui il terreno, e poi il tempo, e quindi più di una buona occasione. E la vita correva veloce. State ascoltando il monologo teatrale L'uomo proiettile, storie operaie neppure troppo allegre senza morale, di e con Mirko Olivieri. Tra qualche minuto il secondo atto, rimanete in ascolto. Castongo mezza via, sparuto va a vedere, non trovo non è pace, a notte faccia giorno, sembo basta che torno, sparuto va a vedere. Suono la vierdo per te, fammi dormire una nottata abbracciata con te. Oh Mari, oh Mari, quando suono rosa, nugliette fronne dolce, o cielo che non mente, tu dormi da cante a nonna fianca a te, tu dormi da cante a nonna fianca a te. Oh quando suono abierto per te, fammi dormire la nottata abbracciata con te. Oh Mari, oh Mari, quando suono occhi assorti ad osservare il movimento che sorvola i nostri pensieri, facili, maniaci, scontati, ma veri, Restiamo qui inorriditi per quel momento mancato, per una parola mai detta, tutto racchiuso in quello che siamo. Continua così a dondolare con poca passione ma con molta dolcezza il nostro tempo, che non capiamo, con il ridicolo rischio che alla terra rimanga ma non rimarrà che passato, vita va via. Con te ti porti dietro il peso dei miei ricordi, le mie domande perdute in una sala da bar. E anche quando il tempo della metà sarà assorbito dall'uomo in cammino, un nuovo fiore sboccerà, un nuovo io, ancora incerto del suo sapore. La vita va come va, considerazione troppo semplice, di nuovo privo di spina dorsale. La vita è un terno all'otto, affermazione d'azzardo di chi nella vita le ha tentate tutte ma non gliene è andata bene una. Ad altri invece alla prima esce una quaterna, io mi accontenterei di un estratto per essere felice un giorno, e voi? La vita va presa come viene, bravi, giusta affermazione, ma se viene in senso contrario, a velocità sostenuta, e ci fai un frontale, è duro e può far male. La vita è ingiusta, affermazione pessimista di chi si piange troppo spesso addosso. Le lacrime per prime se ne sono rese conto, facciamo dei turni massacranti, non possiamo continuare in queste condizioni, e arrivano a lacrimare la parola sciopero. Ecco perché chi si piange troppo spesso addosso arriva a dire la tipica frase: non ho più lacrime. E sì, ce l'hai, ma sono in sciopero, coglione. E passano gli anni sopra gli anni. Gli anni sopra gli anni, gli anni sopra gli anni, gli anni sopra gli anni, gli anni sopra gli anni. Gli anni sopra gli anni. È un'orgia di anni. Ehi, ma con tutto lo spazio che c'è nel mondo, proprio tutti sopra di me dovete accalcarvi? E poi, ma con quanta velocità? Un mio amico mi dice che i suoi passano più lenti, allora mi viene il dubbio che non se ne vuole andare, che mi dice: guarda, mi trasformo in certezza positiva, sensazione di benessere divina se mi paghi il giusto. Guarda, mi trasformo in certezza positiva, sensazione di benessere divina se mi paghi il giusto. Un dubbio ricattatore, no. Dicevo di prendere i miei anni, di portarli tutti dal dottore e farli analizzare. Dottore, un dubbio ricattatore, credo che i miei anni vadano troppo veloci, non possano avere queste prestazioni e la mia faccia poco invitante ne è testimonianza. Lei cosa mi dice? Allora, guarda, per quanto riguarda la tua faccia poco invitante, non c'è neppure bisogno di esprimere un parere medico, basta un semplice gusto estetico, fa schifo. I tuoi anni però quelli sono regolari, tu soffri a prescindere, ma soffri in modo più radicato e particolare della sindrome, ho 30 anni, non ho fatto un cavolo nella vita e ora mi sudo il culo per aver perduto troppo tempo. Culo? Sindrome? Tempo, ma è grave, si guarisce. E poi, ma come si chiama? Tu come ti chiami? Febbraio. L'io Febbraio. Bello! Guarda, come nome di persona fa veramente schifo, ma per una sindrome è perfetto. E allora, lo sai che ti dico? Si chiamerà Sindrome di Febbraio. Ecco a voi la Sindrome di Febbraio! Bellissimo. E poi, sorridi. È tutto vero, guarda, non sei su candy di camera. Che culo. Io ho sempre sognato di avere una sindrome tutta mia. Mi ricordo che gli altri bambini immaginavano di fare gli architetti, gli ingegneri, gli avvocati, gli astronauti ancora di più, avere tantissimi soldi, bellissime donne intorno. Io invece mi immaginavo rassegnato, rachitico, rattrappito, zitto, silenzioso, nell'angolino tutto buio. Con la sindrome tutta mia, la sindrome di febbraio. E che culo, è tutto vero, non so, su Candid Camera. Dopo il medico legale, anche il giudice sportivo ha ritenuto di non intervenire, di non squalificare alcuni dei miei anni. E allora me li porto tutti con me, sotto forma di candeline da spengere, torte da mangiare, regali da scartare, questo se ti va bene. Altrimenti sono soltanto numeri. Sei sta a bambino. 15, adolescente, 18, c'è un cambiamento maggiorenne, per arrivare poi a 33. 30 che? 33. Dica 33? No! Dica 33? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, 33 è un'età pericolosa. È un'età che già da un punto di vista storico e religioso non porta bene, tu lo sai. E allora ti controlli ripetutamente, mani, piedi, costato. Ma con questa storia mi sembra che stai anche un po' troppo esagerando, eh. Rischi di diventare blasfemo, se poi è vero che la tua sfiga, no, fa 33, no? E se è vero che la paura tua fa mille, la tua deficienza la doppia, pensa un po' tu come sei messo. 33 anni è anche l'anno della vacanza che aspettavi da una vita. La vacanza a Cuba con gli amici, la vacanza delle 10 valigie, una di ricambi di vestiti, perché una t-shirt in più a migliaia e migliaia e migliaia di chilometri di distanza può sempre servire. E 9 di preservativi che devono assolutamente servire. E nonostante ciò, nonostante quando tu ti imbarchi in quell'aereo hai uno sguardo evidente da maniaco sessuale in crisi di astinenza, vuoi far passare la vacanza a Cuba con gli amici come vacanza culturale. Quest'anno vai in vacanza? Vacanza. Sì, chiamiamola vacanza culturale. Dove? A Cuba. E tua madre ti difende. Tuo figlio quest'anno va in vacanza? Vacanza. Vacanza culturale. Dove? A Cuba. Guarda, se proprio ti dice merda, tu ritorni dalla tua vacanza culturale a Cuba pure fidanzato. Un colpo di fulmine per te, semplicemente un colpo per i tuoi genitori al tuo ritorno. 33 anni è anche l'anno del matrimonio. E non scordarti che anche se tu ancora nella vita non hai fatto un cacchio, sei operaio dentro e come tale fai l'amore in modo operaio a turni. Dalle 5 alle 13, dalle 13 alle 21, dalle 21 alle 05, un turno per ogni settimana. E se capita un turno che tua moglie, anzi se capita una settimana che tua moglie fa un turno diverso dal tuo, tu sei un cornuto matematico. All'interno poi di un turno dell'amore c'è sempre 30 minuti di pausa. Ma non dipende da te, no, non controllarli, no, no, non dipende da te. Sono i tuoi spermatozoi che invece di dirigersi verso l'uscita della libertà si ritraggono improvvisamente dalla parte della milza, leggermente sopra. Qui c'è la mensa, pausa mensa per un caffè, per parlare della vita che verrà, se verrà, chi di loro ce la farà. Segmentali preesistenziali. E già da qui si capisce che tu a 33 anni ti autoromperai i coglioni, che oltre ad essere un chiaro segnale di sadomasochismo devi anche fare parecchio male. Hai mille domande nella testa e poi nient'altro, e da qui si intuisce perché tu non arrivi alle risposte. Hai mille domande della serie: se il signor presidente è un uomo che si è fatto da solo la madre, che ruolo ha avuto? Se un pesce rosso è comunista, se salmoni nuotano controcorrente sono all'opposizione, se una donna aspetta un bambino ma questo non arriva, lo sta semplicemente aspettando alla fermata sbagliata. Se è vero che uno su mille ce la fa e a te viene comunicato di essere il 1001, ci rimani male o ci rimani proprio? Se un salce piangente ride a crepapelle, sta tentando il suicidio ed è con tutte queste risposte, proprio perché hai tutte queste domande, che tenti di avere informazioni sul tuo futuro in anticipo leggendo i fondi di caffè che bevi al bar. Ma se nel tuo fondo di caffè non trovi nulla di interessante, allora leggi anche il fondo di caffè del cliente a te vicino, e poi ancora di quello che è vicino, e poi anche il fondo del bar, la cantina di una casa vicina. Sazio di così tanta cultura futura, anche se non la tua, ricevi un giorno una telefonata. E la risposta le faremo sapere, lei vada che noi le faremo sapere. Vada che noi le faremo sapere. Ma poi non si sente mai nessuno. E la risposta a un colloquio di lavoro, lei vada che noi le faremo sapere. In questo caso però ti hanno fatto risapere. Hai riaperto la piccola fabbrica del piccolo paese. Vai a lavorare nella piccola fabbrica del piccolo paese. D'altronde ero un predestinato, ti ricordi? Già dall'inizio. Buongiorno. Buongiorno politici, politicanti, politicizzati, imprenditori, oratori, imbroglioni, dipendenti, attenti, diffidenti, scrittori, spettatori, sognatori. Buongiorno padri, buongiorno madri, buongiorno mondo. È nato lì a febbraio, è nato un operaio. Un tuffo dentro un mondo che non vuoi, mai desiderato, caduta libera, il corpo è solo peso, vorrei essere appeso a qualcosa per bloccarmi, sospeso, umbilico nel vuoto e poi tornare indietro. Mi perdo in pensieri sterili e distillati a 90 gradi, con i quali mi ubriaco a poco costo. Il prezzo sono soltanto sogni, illusioni, strade sconnesse verso nuove emozioni. Cado giù, a velocità folle, un passante che mi vede pensa, quello è un folle? No, non lo sono, lo è soltanto la velocità che gratuitamente, bastarda, mi sta portando giù. E che quest'ora la fab è poco affollata e si potrebbe anche affermare che non c'è un cane, anche se c'è non riesco a vederlo né a sentirlo. Ora, cane che abbaia non morde, ma se non abbaia come in questo caso nasce la domanda, dato che non conosco adatta frase di circostanza, ho paura di essere mangiato da un animale che non c'è, ho paura che l'animale in questione possa essere io. Effettivamente nella vita non ho mai abbaiato e anche della parola ho sempre fatto poco uso, sono stato nel mondo in modo discreto e silenzioso. Do fastidio qui, scusate il disturbo, mi mangio, sono il cannibale di me stesso, non oggi ma tutti i giorni che ho fatto della staticità, della pigrizia, il mio modo di vivere nel mondo. Dovrei essere preoccupato di essere assegnato ad una triste sorte, strata sorte, da un destino distinto, estinto ma non troppo, stinto e sbiadito sì, perché quando si parla di destino sempre in mente, anche nella testa, per essere un po' più concreto in questa vita, di un colore chiaro, fuligginoso, nebbioso, polveroso, un colore che si tocca ma non è nulla, in mente, nella testa il nulla, infatti suona vuoto. Che anche sul luogo ho l'idea, pure l'impressione che sia in nessun dove, di questo mondo comunque molto altrove, lì però la fabbrica me la immagino come un'enorme balena che nuota dentro il mondo, che si ingoia persone come me, persone che nella vita non sanno inventarsi, reinventarsi, trasformarsi, persone incerte, le persone incerte sono persone ferme, le persone ferme sono facili prede, una balena piena di ingranaggi, noi vecchi rugginosi che vanno sempre avanti, perché avanti bisogna andare, questo è il progresso, questa è la tecnologia, per poi passare un giorno alla super tecnologia, alla non lo so, perché ci sarà il giorno che anche la parola futuro rischierà il posto per esprimere tutto quello che verrà, che si farà, sarà quel che sarà. Ma perché pensi così tanto, troppo al tuo domani? Ti faccio notare che hai la testa, le mani, il corpo tutto, la tua mente in questo tempo che poi è il presente. Ti devi rassegnare, sei rassegna ma non teatrale. Sei stato assegnato a costruire beni di pubblica utilità, a lavorare 8 ore al giorno più straordinario per il bene tuo e di tutta la comunità. Comuniché? Comunità. Comuniché? Comunità. Sono in comunità? E per quale motivo? Non me ne ero reso mai conto. Cameriere, mi porti il conto, me ne voglio andare, mi dispiace. Il suo conto è ancora in corso, potrei avere uno sconto. Guardi, non ci conti proprio. Ma io devo andare via da qui o quando uscirò sarò ormai fuori corso come la moneta che più non vale. Vale la pena tutto ciò? Signore, guardi, mi spiace, lei si è in pena, ma si renda ben conto del problema. Lei è un operaio. Dai, per principio, deve smetterla di vagare per il mondo in modo clandestino, invece di seguire il suo destino. Di quale colore è un'anima? Quale forma ha? Ha una forma? Ha un colore? Esiste? Certo che esiste, mi presento. Avete qui di fronte a voi l'anima di Lio Febbraio. Anima taglia 52, anima blu scuro. Non scoloro, non mi accorcio neppure 90 gradi. Ma che grandi anima sono. Guarda, bellissima. Non discuto. Ma sei e rimani una tuta da lavoro. Io avrei preferito, come anima, nulla di stravagante. Una maglietta e jeans andava bene, ma neppure una tuta da lavoro. E poi, chiariamoci subito. Tu non puoi essere la mia anima. E come mai? E come mai, come mai, come mai? Perché io di anima porto una combinata 48-50. Tu hai appena dichiarato di essere una 52. È evidente, la fisicità non la si discute. La fisicità non la si discute. Lio, vieni qua e indossami. Lio, vieni qua e indossami. Lio, vieni qua e indossami. Sta morendo dentro me. L'ultimo sorriso, paradiso artificiale di un animale mai capito. E la strada del ritorno si sta perdendo nel passato. E la gioia che ora provo appartiene a un tempo che non c'è mai stato. Avresti voluto fare l'architetto, ma neppure i tuoi castelli di carte sono mai stati su. Nelle tue assenze a scuola ingiustificate e ben architettate, e venne allora a bussarti un ragionevole dubbio. Solitamente ad altri, alla porta, non bussa un ragionevole dubbio. Un vicino, un parente, il postino, se non c'è il campanello, no, a te un ragionevole dubbio è cosa ancora più grave. Tu gli apristi. Prego, tu gli apristi, lo facesti entrare. E lui non uscì mai più. Trovò certamente buon materiale. Avresti voluto insegnare lettere, ma da tipo litigine sgrammaticato, quale sei? Litigasti ripetutamente con la grammatica e non insegnasti mai niente. Una volta però tuo nipote ti domandò se sulla parola pomeriggio ci andassero anche soltanto due G o anche due M, tu rispondesti: guarda, per sicurezza, una M in più mettiamocela. Sì, una M in più mettiamocela. Tuo nipote venne correttamente bocciato con due C. La M in eccesso da te consigliata venne donata la parola ente, che divenne ciò che aveva sempre desiderato essere, cioè mente. L'accento di ente, trovatosi improvvisamente disoccupato, si suicidò. Siete! Gettandosi dalla stessa lettera che l'aveva ripudiata. Triste storia di un analfabeto decadente. Avresti voluto fare lo scienziato, ma dopo attenta e costosa sperimentazione facesti una scoperta di essere inadeguata alla scienza oltre che parecchie altre cose. Avresti voluto aiutare il prossimo, ma quando chiamarono avanti il prossimo, rispondesti tu, ricordi? Avresti voluto giocare a calcio, ma da ragazzino, dopo un'azione travolgente, dribblasti tutta la squadra avversaria. Bravissimo! Grande! Ora segna e sei a posto. No. Tutti fermi. Ti guardi intorno. E poi dribblasti tutti i tuoi compagni, l'arbitro, l'allenatore, tutto il pubblico, tutta la popolazione del paese, i problemi di matematica, Martina e Caterina, i consigli dei tuoi genitori, quelli per gli acquisti, tutti i tuoi soprannomi e anche i soprammobili, la chiesa, il prete, la confessione, la polizia che ti voleva arrestare, ma tu eri inarrestabile, giorni sbagliati, amici sbandati, un matrimonio, 5 fidanzate e un uomo che di nascosto ti gridava sottovoce I love you, una marea, un mare di squali, il peso di tanta cultura, tragicomici, politici, guerrieri, fasi della vita della luna, gli spettacoli a teatro che duravano più di 3 ore, gli scrittori scapestri, quelli depressi e quelli decadenti, certe notti, certi giorni e tante facili certezze, ti guardasti negli occhi e tutt'oggi non si capisce come cacchio hai fatto a guardarti negli occhi senza uno specchio, ma tu ti guardasti negli occhi, fintesti a destra e poi dribblasti a sinistra, calcesti la tua vita con tutta la forza che avevi in corpo, nell'anima e pure in banca, poco, e segnasti con la penna nel calendario il tuo primo giorno di lavoro in una fabbrica. E ora sei davanti alla fabbrica. Cazzo, allora esiste veramente. Fino ad oggi non ci avevi neppure creduto più di tanto alla sua esistenza. Ci passi da una vita, ma distante, ad alta quota, con il tuo aereo personale fatto di sogni, illusioni, adolescenza, incoerenza, strafottenza, testa alta, petto in fuori. A me la vita non fa paura. Beh, ora qui davanti, questa balena di cemento un po', sì, un po' tanto, sì, decisamente, sì, tremendamente, sì, categoricamente, sì, sorprendentemente, sì, incredibilmente, sì. Fermati, ok, guarda, l'abbiamo capito che per te è un giorno di merda e per non andare fuori te, ma ti stai caccando sotto, ma così vanno le cose. Sì, così vanno le cose perché sei dentro. E una volta dentro vedi una cosa che non credevi, che non avresti mai creduto, tuo padre come non lo avevi mai visto, è un burattino di legno con una tuta blu come la tua, solo che la tua è nuova di pacca, la sua si è scolorita, si è sgualcita, si è accorciata, è un operaio, 30 anni di fabbrica di prima categoria e quest'anno sono a punteggio pieno in campionato, vinco una pacca sulla spalla, per favore, no grazie, ho la schiena a pezzi, anzi, se in giro trovate una scapola è la mia. La fabbrica lo ingollò il 3 luglio del 1970 e dopo più di 30 anni non ha più la forza né la voglia di odiarla, quella fabbrica che cazzo se ne è impossessato, ne ha preso desideri, sogni, la carne, la famiglia, se ne è preso tutto e un tutt'uno, quella fabbrica che cavolo è lui. Tu invece che sei un operaio nuovo di pacca, te ne esci per un istante con uno scatto sognatore da 100-metrista campione del mondo e ti autocatapulti nel tuo mondo dei sogni, visioni, previsioni, trailer, se non paghi il biglietto neppure l'entrata, vedi parte del tuo futuro di operaio dove i giorni passano fra catene di montaggio, ingranaggi ben lubrificati e sogni che in senso opposto si stanno allontanando. Ehi, ma dove andate? Emigriamo al nord da un tipo di belle speranze e anche discreto fisicamente che ci realizzerà. Con te rimarremo eternamente incompiuti, sai come vanno queste cose, senza rancore, ma poi tu hai anche la sindrome di febbraio, senza rancore, addio, addio, addio. E volano anche i mesi, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto si fermò di colpo, giugno, luglio, luglio lo tamponò, questo venne tamponato a sua volta da giugno, l'estate entrò prima in confusione, poi in ebollizione, faceva un caldo maiale per non utilizzare sempre lo stesso animale, il cane, poi visto il mare, l'asma del titolare, il marasma generale, si chiuse baracche e burattini, il titolare preso da un impeto di chiusura, chiuse anche la moglie in bagno, la suocera in cantina e la fabbrica, chiuso per ferie, ma le ferie presto volarono via. Innamoratesi di un 19 dell'Alitalia che si dirigeva verso Panama e tu, dopo esserti cercato per tutte le vacanze senza trovarti, ti ritrovasti nuovamente in fabbrica. Forse ho veduto la parte peggiore. Tutto a posto allora, ce la farò. Pensavo veramente peggio questa fabbrica, tutti C'è fatica, si lavora 8 ore al giorno, ho 30 anni, ma no, tranquillissimo, posto Berlino. Mi sono trovato bene. Ma guarda, tu non ti sei trovato bene. Tu ti sei preso le ferie, 30, 40 giorni, in un anno, non di più. Tu non sei adatto. E sei un proiettile. Prendesti tuo padre con te, risaliste insieme dallo stomaco della grande balena fino alla bocca, controcorrente, come salmoni all'opposizione, mentre la fabbrica balena continuava a ingollare noi operai, pezzi di vite, voi aspettaste che la fabbrica aprisse la bocca e poi via, saltaste fuori in mare aperto e nuotando sopra sogni, ricordi, mute a pagare, figli da baciare, mogli da amare, spermatozoi in tuta blu, imprenditori padroni, monologanti inadeguati, bus numero 137 padre, SS autoritari, scuole di serie B, colloqui di lavoro, tassisti comunisti, sindacalisti di passaggio, pensieri incerti, DNA, forma di catena di montaggio, storie di qui, convivenze sociali, ammortizzatori sociali, scali mobili, politici immobili, mercato degli immobili, tassi di interesse, non il vostro ma di altri, ferie in partenza, ferie in arrivo, allievi Eurostar, spaccati di vita, cuori spezzati, vite volate via, morti cadute addosso, caro vita, caro mio, cari miei. Mi fanno male le braccia e anche il resto. Nuotare in questa vita è dura. Questo mare non finisce mai. Anzi, qui. Sì, proprio qui. Ora, sì. Ora, qui. Toccasti alla vita. La fabbrica, prima di rinabissarsi nel suo mare produttivo, cosa fare al minor costo e rivendere al massimo importo, era lontana e zampillava segnali di fumo che dicevano: tanto domani vi riprende entrambi, e col cavolo. Un abito blu non fa un operaio. Sei un uomo proiettile tu. Poi domani sarà quel che sarà. Così si cantava e così si vedrà. Avete ascoltato L'Uomo Proiettile, storie operaie neppure troppo allegre e senza morale, di e con Mirko Olivieri. E, al più presto provvederemo a pubblicarlo sul sito di Onda Rossa, www.ondarossa.info. Grazie per averci ascoltato, buon proseguimento.